25 maggio 200 2500 25 maggio 2025 Marco Guastavigna. Pensiero de artificiale. Digicop 0.1. Quadro di competenze digitali per la cooperazione. La giustizia sociale e la decolonizzazione dei saperi, versione estesa. Introduzione generale verso un orizzonte digitale equo, solidale e liberatorio. Digicop 0.1 emerge imperiosamente dalla constatazione critica della necessità di ripensare radicalmente e dalle fondamenta il concetto stesso di competenza digitale. Tale ripensamento si impone alla luce delle profonde e persistenti disuguaglianze strutturali, economiche, sociali, di genere, razziali e geografiche, delle pervasive dinamiche di potere neocoloniali che continuano a plasmare le relazioni globali e delle insaziabili logiche estrattive che caratterizzano e inquinano l'attuale ecosistema tecnologico, dominato da oligopoli transnazionali prevalentemente occidentali. Questo quadro si distacca con decisione da una visione meramente strumentale, tecnicistica e individualistica delle tecnologie, che le riduce a semplici strumenti neutrali per il successo personale o la competitività economica. Al contrario, Digicop 0.1 propone un approccio olistico, eticamente fondato e politicamente consapevole, basato sui principi irrinunciabili della cooperazione genuina, del mutualismo solidale, dell'antiabilismo come pratica di inclusione radicale, del femminismo intersezionale come lente per comprendere e smantellare le oppressioni multiple, e di una profonda e costante consapevolezza critica delle implicazioni sociopolitiche di ogni scelta tecnologica. L'obiettivo primario e ambizioso di Digicop 0.1 è quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione capillare di competenze digitali che consentano alle persone, ai gruppi e alle comunità, specialmente quelle storicamente marginalizzate e oppresse, di decostruire attivamente e sistematicamente la supremazia cognitiva occidentale e le sue manifestazioni nell'infosfera digitale e di contrastare con efficacia l'epistemicidio culturale, ovvero la deliberata o involontaria cancellazione, svalutazione o subalternizzazione dei sistemi di conoscenza non occidentali. Ciò implica valorizzare, recuperare, proteggere e amplificare la ricca pluralità dei saperi, delle epistemologie, delle lingue e delle forme espressive indigene, contadine, femministe, queer, comunitarie e popolari. Riconoscere, analizzare criticamente e contrastare con determinazione le logiche estrattive degli oligopoli tecnologici occidentali e delle loro filiere globali, che mercificano dati personali e collettivi, relazioni umane, affetti, creatività e conoscenze, spesso attraverso lo sfruttamento invisibilizzato e precario del microlavoro sommerso, esempio click working, addestramento di IA, moderazione di contenuti, concentrato nei paesi del sud globale o tra le fasce più vulnerabili delle società del nord. Resistere con intelligenza e creatività all'invasione pervasiva dell'istruzione, della cultura, della sanità e degli spazi pubblici da parte delle grandi corporation tecnologiche e delle loro piattaforme proprietarie, che impongono modelli pedagogici standardizzati, contenuti commerciali, logiche di sorveglianza e dipendenza tecnologica. Promuovere e costruire attivamente alternative basate su software libero e open source, hardware aperto e riparabile, infrastrutture di rete comunitarie e decentralizzate, e pedagogie critiche e trasformative. Promuovere e praticare una drastica e consapevole riduzione dei consumi energetici e materiali legati al ciclo di vita completo del digitale, dall'estrazione mineraria allo smaltimento Daily Waste, in un'ottica di giustizia ambientale e climatica intergenerazionale e globale, riconoscendo l'impronta ecologica sproporzionata delle tecnologie e la sua iniqua distribuzione. Esigere. Partecipare attivamente alla coprogettazione e implementare algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale che siano aperti, trasparenti, interpretabili, equi, non discriminatori e democratici by design e by default, che non perpetuino né amplifichino i bias sociali, razziali, di genere o abilisti esistenti, e che siano sottoposti a rigorosa valutazione di impatto sociale e a controllo pubblico e comunitario. Favorire, coprogettare, costruire e diffondere dispositivi e tecnologie autenticamente conviviali, nel senso illicchiano di strumenti che accrescono l'autonomia e la creatività delle persone e delle comunità, invece di renderle dipendenti o controllate, ovvero tecnologie riparabili, modulari, accessibili, personalizzabili, durevoli e controllabili localmente, in netta opposizione all'obsolescenza programmata, ai sistemi chiusi, walled gardens e alle scatole nere e tecnologiche. Contrastare con ogni mezzo la totale e indiscriminata mercificazione della conoscenza, dell'informazione e della cultura, praticata dalla logistica capitalistica dell'informazione e dalle industrie culturali egemoniche. Promuovere invece la libera circolazione dei saperi, la condivisione delle risorse creative e scientifiche, il rafforzamento dei beni comuni informazionali e l'accesso aperto, equo e plurale ai patrimoni culturali dell'umanità. DigiCop 0.1 si articola in aree di competenza interconnesse che mirano a coltivare non solo abilità tecniche, ma soprattutto profonde consapevolezze critiche, pratiche digitali trasformative e attitudini etiche, solidali e decoloniali. L'obiettivo finale è un agire digitale che sia realmente emancipatorio, che contribuisca al rafforzamento delle capacità individuali e collettive, e che sia posto al servizio della giustizia sociale, della dignità umana e della sostenibilità ambientale e culturale del pianeta. Area di competenza 1. Alfabetizzazione informativa critica. Sovranità epistemica e decolonizzazione dei saperi digitali. Descrizione dell'area. Quest'area si concentra sullo sviluppo della capacità di accedere, analizzare, interpretare, valutare criticamente, co-creare e condividere informazioni, dati e conoscenze nel complesso e spesso opaco ecosistema digitale. Questo processo deve essere costantemente informato dalla consapevolezza delle dinamiche di potere, delle asimmetrie informative e delle egemonie culturali e linguistiche che modellano il panorama informativo globale. Si tratta di decostruire la presunta oggettività e neutralità delle fonti informative e delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo attivamente e denunciando l'epistemicidio culturale, la sistematica svalutazione e cancellazione dei saperi non occidentali, perpetuato dalla supremazia cognitiva occidentale e dalle sue infrastrutture digitali. L'obiettivo è promuovere attivamente la ricerca, la validazione, la valorizzazione e la circolazione della pluralità dei saperi subalternizzati, indigeni, femministi, ecologisti, radicali e comunitari, coltivando così una sovranità epistemica individuale e collettiva, ovvero la capacità di definire autonomamente i propri orizzonti di conoscenza e di significato. 1.1 Navigare, ricercare, interrogare criticamente e contestualizzare dati, informazioni e narrazioni digitali, sfidando le bolle algoritmiche. Descrittore. Articolare i propri bisogni informativi e di conoscenza riconoscendo e mettendo in discussione i condizionamenti culturali, sociali, politici ed economici che li influenzano. Ricercare attivamente e con curiosità dati, informazioni e contenuti digitali attraverso una molteplicità eterogenea di fonti, includendo con particolare attenzione quelle alternative, indipendenti, comunitarie e provenienti da contesti non egemonici. Interrogare sistematicamente la loro provenienza, gli autori, i finanziatori, i contesti di produzione, gli impliciti ideologici e le logiche di potere che li sottendono. Sviluppare e affinare continuamente strategie di ricerca che vadano consapevolmente oltre i risultati proposti dagli algoritmi delle grandi piattaforme commerciali, valorizzando la serendipità, l'esplorazione autonoma e l'accesso a prospettive marginalizzate, dissonanti o deliberatamente oscurate. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica è profondamente cosciente che i motori di ricerca, i social media e gli aggregatori di notizie dominanti sono controllati da un ristretto numero di oligopoli tecnologici occidentali e che i loro algoritmi, lungi dall'essere neutrali, tendono a riprodurre e amplificare bias sistemici, razziali, di genere, geografici, linguistici, privilegiando narrazioni egemoniche, fonti mainstream e contenuti commercialmente vantaggiosi, invisibilizzando o distorcendo saperi altri, prospettive critiche e lingue minoritarie. Riconosce con lucidità come gli algoritmi di personalizzazione e raccomandazione creino e rafforzino bolle di filtraggio, filter bubbles, e i camere dell'eco, echo chambers, che limitano drasticamente l'esposizione a prospettive diverse, impoveriscono il dibattito pubblico e possono rafforzare pregiudizi e polarizzazione. Comprende a fondo il concetto di estrattivismo dei dati e come ogni propria interazione e ricerca alimenti questo modello di business basato sulla sorveglianza e sulla mercificazione dell'esperienza umana. Analizza come la velocità e la frammentazione dell'informazione online possano ostacolare la riflessione, profonda e favorire reazioni emotive piuttosto che analisi ponderate. Pratica trasformativa, utilizza con regolarità e promuove l'uso di motori di ricerca alternativi, etici, open source e rispettosi della privacy, esempio. DuckDuckGo, StartPage, CRX, Brave Search, Quant, e ne comprende i diversi meccanismi di indicizzazione. Esplora attivamente e contribuisce ad archivi digitali comunitari, biblioteche popolari online, piattaforme di citizen science decoloniale e iniziative di condivisione di saperi non occidentali, esempio. Archivi di tradizioni orali, database di conoscenze indigene sulla biodiversità, progetti di storia orale femminista. Applica con rigore tecniche di lettura controegemonica e di archeologia del sapere digitale, interrogando le fonti primarie, gli autori e le autrici, con attenzione alla loro posizione sociale e geopolitica, i finanziatori occulti, i contesti storici e politici di produzione dell'informazione. Partecipa attivamente alla creazione e cura di percorsi di conoscenza collettivi, multilingue e decolonizzati, ad esempio attraverso la redazione critica di voci Wikipedia, la creazione di glossari comunitari o la traduzione collaborativa di testi importanti in lingue minoritarie. Sviluppa diete informative e personalizzate e consapevoli, diversificando le fonti e dedicando tempo alla lettura approfondita. Attitudine solidale e decoloniale. Mostra una profonda e genuina curiosità intellettuale e un'apertura radicale verso epistemologie, ontologie, cosmogonie e sistemi di conoscenza radicalmente diversi da quello occidentale moderno dominante. È umile e autocritico nel riconoscere i limiti, i privilegi e i bias della propria prospettiva e attivo e perseverante nel cercare di decolonizzare il proprio sguardo, il proprio linguaggio e le proprie pratiche informative e di ricerca. Sostiene attivamente, anche con donazioni o volontariato, progetti di digitalizzazione etica, conservazione e diffusione di saperi indigeni, tradizionali e comunitari nel rispetto della loro sovranità, dei loro protocolli culturali e del principio del consenso libero, previo e informato, FPC. Promuove il dialogo interepistemico e la co-costruzione di nuove sintesi di conoscenza. 1.2 Valutare criticamente, decostruire e smascherare dati, informazioni e contenuti digitali, riconoscendo le logiche di potere, l'epistemicidio e la manipolazione. Descrittore, analizzare, confrontare e valutare con profondità critica e acume l'affidabilità, la pertinenza, l'accuratezza, i bias impliciti ed espliciti e le intenzioni politiche, economiche, ideologiche, di dati, informazioni e contenuti digitali. Porre particolare attenzione a smascherare le dinamiche di potere sottese, la persistente supremazia cognitiva occidentale, i processi storici e attuali di epistemicidio culturale e la manipolazione delle coscienze. Riconoscere, analizzare e contrastare attivamente la disinformazione deliberata, la misinformazione accidentale e le narrazioni tossiche, hate speech, teorie del complotto dannose, propaganda estremista, che alimentano odio, discriminazione, ingiustizia sociale e sfiducia nelle istituzioni democratiche, quando queste operano per il bene comune, spesso originate da interessi economici consolidati, da attori politici autoritari o da gruppi di interesse opachi. Sviluppare la capacità di discernere tra critica legittima e campagne diffamatorie orchestrate. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Comprende in profondità come la selezione, l'organizzazione, la visualizzazione e la presentazione dei dati e delle informazioni, incluse le statistiche ufficiali, i sondaggi d'opinione e i report scientifici, riflettano specifiche visioni del mondo, priorità politiche, interessi di classe e di potere, e come possano essere usate per legittimare disuguaglianze, politiche ingiuste o interventi neocoloniali. Riconosce che la storia, la scienza e la filosofia ufficiali insegnate nelle istituzioni educative dominanti sono spesso il risultato di un lungo e violento processo di epistemicidio che ha sistematicamente marginalizzato, inferiorizzato, distorto o cancellato saperi, pratiche e sistemi di valori non occidentali, femminili, queer o popolari. È pienamente consapevole del ruolo cruciale dei media mainstream, corporate e statali e delle piattaforme digitali, con i loro algoritmi di trending, nella costruzione sociale della realtà, nella formazione dell'opinione pubblica, nella creazione di panici morali, Nella diffusione di ideologie dominanti e nella neutralizzazione o criminalizzazione del dissenso e dei movimenti sociali. Analizza come la gamification dell'informazione possa portare a una sua banalizzazione. Pratica trasformativa. Applica con rigore metodologie di analisi critica del discorso, CDA, analisi semiotica dell'immagine e del video, e tecniche di digital forensics di base. Esempio verifica inversa delle immagini, analisi dei metadati, per decostruire i contenuti digitali e svelarne i messaggi nascosti, le omissioni significative o le tecniche manipolatorie. Partecipa attivamente a comunità di fact-checking indipendenti, dal basso, decoloniali, femministe e antirazziste, che non si limitino alla verifica fattuale superficiale ma indaghino anche le cornici interpretative, le fonti di finanziamento e gli interessi geopolitici in gioco. Contribuisce con passione e impegno alla creazione e diffusione di contronarrazioni, di giornalismo comunitario e investigativo, di media attivisti e di informazioni provenienti direttamente da gruppi oppressi, marginalizzati o in lotta per i propri diritti e per la propria terra. Utilizza e promuove strumenti open source per visualizzare e interrogare i bias nei dataset e negli algoritmi. Esempio: iFairness Toolkits, piattaforme per l'audit algoritmico partecipato. Sviluppa e diffonde guide per il riconoscimento delle fake news e della propaganda. Attitudine solidale e decoloniale. Sviluppa e coltiva un profondo e irriducibile scetticismo metodologico verso le verità assolute, le narrazioni univoche, autocelebrative e apparentemente neutrali, specialmente quelle provenienti da fonti di potere consolidate, governi, corporation, istituzioni internazionali egemoniche, think tank influenti. È visceralmente impegnato a dare voce, ascolto, credibilità e visibilità amplificata a chi è stato storicamente e sistematicamente silenziato, invisibilizzato, patologizzato o caricaturizzato. Promuove attivamente una cultura del dubbio costruttivo, del pensiero critico autonomo e collettivo, della verifica incrociata e partecipata delle informazioni e della responsabilità etica individuale e collettiva nella produzione, interpretazione e circolazione dei saperi. Si impegna a disimparare i pregiudizi interiorizzati. 1.3 Gestire, archiviare, curare e co-creare dati, informazioni e contenuti digitali in modo etico, cooperativo, accessibile, sicuro e orientato al bene comune e alla sovranità comunitaria. Descrittore, organizzare, archiviare, recuperare, curare e partecipare attivamente alla co-creazione di dati, informazioni e contenuti digitali in modo intrinsecamente etico, sicuro, per sé e per le comunità coinvolte, proteggendo da furti, manipolazioni o usi impropri, pienamente cooperativo e radicalmente accessibile a tutto asterisco, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive, dalla loro lingua, dalla loro localizzazione geografica o dalla loro disponibilità tecnologica ed economica. Privilegiare sistematicamente l'uso di formati aperti, standard interoperabili, piattaforme tecnologiche comunitarie, decentralizzate, federate e autogestite, e licenze libere e aperte. Copyleft, Creative Commons Appropriate, che favoriscano la condivisione equa, il riutilizzo creativo, l'adattamento contestualizzato e la co-costruzione della conoscenza come bene comune. Rispettare, difendere strenuamente e promuovere attivamente la sovranità dei dati delle comunità, specialmente indigene e locali, e dei singoli individui, opponendosi con decisione e con pratiche concrete a ogni forma di estrattivismo informativo, di mercificazione predatoria della conoscenza e di colonialismo digitale. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica è pienamente consapevole dei gravi e crescenti rischi per la democrazia partecipativa, la privacy individuale e collettiva, l'autonomia decisionale, la diversità culturale e la sovranità nazionale e comunitaria legati alla schiacciante centralizzazione dei dati e delle infrastrutture digitali, cloud, cavi sottomarini, data center, nelle mani di un pugno di gigantesche corporation transnazionali, GAFAM, BACE, eccetera, e di alcuni stati-nazione particolarmente potenti. Comprende l'importanza vitale, strategica e politica di promuovere, finanziare e sostenere lo sviluppo e l'adozione di infrastrutture digitali decentralizzate, esempio, P2P, blockchain etiche, federate, esempio, Fediverso, resilienti, interoperabili e gestite direttamente dalle comunità o da enti pubblici non profit. Comprende a fondo le implicazioni etiche, sociali, legali e politiche della raccolta massiva, della conservazione a lungo termine, dell'analisi algoritmica e dell'uso, spesso opaco, dei dati, specialmente quelli relativi a comunità vulnerabili, minoranze discriminate, attivisti politici o rifugiati. Conosce approfonditamente i principi del Fair Data, findable, accessibile, interoperabile, reusabile, e del Care Data, Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics, e li applica attivamente e criticamente in una prospettiva di giustizia sociale, di autodeterminazione e decoloniale, specialmente per quanto riguarda la gestione dei dati e dei saperi delle comunità indigene e dei popoli tradizionali, rispettandone i protocolli e le forme di governance. Pratica trasformativa, utilizza quotidianamente, con competenza e convinzione, e promuove attivamente l'uso di software libero e open source FOSS per la gestione sicura dei propri dati, per la creazione collaborativa di contenuti, per la comunicazione protetta e per l'amministrazione di sistemi. Partecipa attivamente, con tempo, competenze o risorse, alla creazione, cura, traduzione, arricchimento e manutenzione di archivi digitali comunitari, esempio. Archivi di movimenti sociali, memorie di lotte popolari, biblioteche digitali popolari autogestite, repository di conoscenze, scientifiche e umanistiche aperte e decolonizzate, esempio. Contribuendo a Wikipedia con una prospettiva critica e intersezionale, supportando e utilizzando Internet Archive e Wayback Machine, creando e sostenendo archivi femministi, LGBTQIA+, di storie orali di migranti o di persone con disabilità. Adotta e promuove con discernimento l'uso di licenze Creative Commons Appropriate, esempio. CC0 per il pubblico dominio, CC BY per la libera attribuzione, CC BY SA, per il copyleft forte, per facilitare la libera circolazione, l'adattamento contestualizzato e la co-creazione di sapere, contrastando la chiusura proprietaria. Pratica e insegna con pazienza e dedizione l'uso di strumenti e tecniche di crittografia forte, esempio. PGPGPG per email, VeraCrypt per dischi, di autenticazione a più fattori di navigazione anonima, Tor e di altre misure di igiene e sicurezza digitale avanzate per proteggere i dati sensibili propri, dei propri collettivi, delle organizzazioni della società civile e delle comunità con cui collabora, specialmente in contesti repressivi o ad alto rischio. Sviluppa protocolli di gestione sicura dei dati per progetti comunitari. Attitudine solidale e decoloniale. È profondamente e attivamente impegnato a, con passione e rigore etico, a rendere la conoscenza, l'informazione e la cultura dei beni comuni globali realmente e universalmente accessibili, comprensibili, riutilizzabili, adattabili e cogestibili da tutto asterisco e per tutto asterisco, in uno spirito di giustizia epistemica e di solidarietà internazionale. Rispetta profondamente. Difende attivamente e promuove politicamente il diritto inalienabile all'autodeterminazione informativa delle persone e delle comunità, inclusa la decisione sovrana di non essere digitalizzati, di non partecipare a determinate piattaforme, di ritirare i propri dati o di definire autonomamente le condizioni per la loro condivisione e uso, esempio, attraverso protocolli di sovranità dei dati indigeni. Promuove la massima trasparenza, la partecipazione democratica e la responsabilità collettiva, accountability nella governance dei dati, degli algoritmi e delle infrastrutture digitali, sia a livello locale che globale. Sostiene attivamente la creazione e il rafforzamento di Data Commons, di cooperative di dati gestite dagli utenti e di modelli di stewardship, dei dati basati sulla fiducia e sul beneficio collettivo. Si oppone fermamente a ogni forma di brevetto sulla vita, sui saperi tradizionali e sui semi. Area di competenza 2, comunicazione, collaborazione orizzontale e costruzione di comunità solidali, inclusive e trasformative. Descrizione dell'area. Quest'area si focalizza sull'utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare processi comunicativi e collaborativi basati sull'ascolto reciproco, l'orizzontalità, l'inclusione attiva di tutte le soggettività, con particolare attenzione alle prospettive femministe, antiabiliste e decoloniali, e la costruzione di comunità digitali e ibride resilienti, solidali e capaci di azione collettiva. Si tratta di creare e partecipare a spazi digitali sicuri, liberi da molestie e discriminazioni, e di utilizzare gli strumenti digitali per il mutualismo e il sostegno reciproco, contrastando l'individualismo competitivo e l'estrattivismo relazionale delle piattaforme commerciali. 2.1 Interagire e comunicare con gli altri attraverso tecnologie digitali in modo etico, rispettoso, inclusivo e non violento. Descrittore, interagire e comunicare tramite diverse tecnologie digitali, privilegiando quelle etiche, open source e decentralizzate, in modo consapevole, rispettoso delle diverse identità e sensibilità, attivamente inclusivo e non violento. Comprendere e utilizzare strumenti e pratiche comunicative che favoriscano l'ascolto, l'empatia, il consenso e la gestione costruttiva dei conflitti, contrastando le dinamiche di odio online, il cyberbullismo e le molestie. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Riconosce come le architetture delle piattaforme social dominanti possano incentivare la polarizzazione, l'aggressività e la superficialità comunicativa. È consapevole dei meccanismi di violenza di genere online, del razzismo algoritmico e delle campagne d'odio coordinate. Comprende l'importanza del linguaggio inclusivo e della comunicazione non ostile. Pratica trasformativa, utilizza attivamente tecniche di comunicazione non violenta, CNV nelle interazioni online. Modera e partecipa a spazi digitali che adottano codici di condotta inclusivi e antioppressivi. Segnala e contrasta attivamente discorsi d'odio e molestie. Utilizza strumenti di messaggistica sicura e crittografata per comunicazioni sensibili. Promuove l'uso di pronomi e linguaggi che rispettino l'autodeterminazione di genere. Attitudine solidale e decoloniale. Si impegna a creare e mantenere spazi di dialogo digitale sicuri e accoglienti per tutte le persone, specialmente quelle appartenenti a gruppi marginalizzati. Ascolta attivamente e valorizza le esperienze altrui. È alleato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza online. 2.2 Condividere informazioni e risorse attraverso tecnologie digitali per il mutualismo e l'azione collettiva. Descrittore. Condividere dati, informazioni, conoscenze e risorse digitali con altri attraverso tecnologie appropriate, privilegiando piattaforme cooperative e decentralizzate, con l'obiettivo di promuovere il mutualismo, la solidarietà, l'organizzazione comunitaria e l'azione collettiva per la giustizia sociale e ambientale. Agire come nodi responsabili in reti di condivisione, rispettando la provenienza delle informazioni e facilitandone l'accesso e la comprensione da parte di tutti asterisco. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Comprende il potenziale delle reti digitali per l'organizzazione dal basso e la mobilitazione sociale, ma anche i rischi di sorveglianza e repressione. È consapevole che la sharing economy promossa dalle corporation è spesso una forma di estrattivismo mascherato. Riconosce il valore dell'e-commoning digitale. Pratica trasformativa. Partecipa e contribuisce a piattaforme di mutual aid, aiuto reciproco, time banking digitale, gruppi di acquisto solidale online e cooperative di consumo consapevole. Utilizza strumenti digitali per coordinare campagne di attivismo, raccolte fondi per cause sociali e iniziative di solidarietà comunitaria. Condivide apertamente competenze e risorse. Attitudine solidale e decoloniale. È generoso nella condivisione di informazioni e risorse che possono essere utili alla comunità. Promuove una cultura della reciprocità e della cooperazione. Si impegna a utilizzare le tecnologie per costruire ponti e reti di solidarietà traslocali e transnazionali. 2.3 Esercitare la cittadinanza digitale attiva e trasformativa attraverso le tecnologie. Descrittore, partecipare attivamente alla vita sociale, politica e culturale attraverso l'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie digitali, con l'obiettivo di promuovere la giustizia sociale, i diritti umani, la democrazia partecipativa e la sostenibilità ambientale. Utilizzare gli strumenti digitali per l'advocacy, il monitoraggio civico, la denuncia delle ingiustizie e la coprogettazione di politiche pubbliche più eque, contrastando l'apatia, il cinismo e la delega passiva. Esempi di consapevolezze critiche. Pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Riconosce i limiti e le distorsioni delle forme di partecipazione offerte dalle piattaforme governative o corporate, spesso concepite più per il controllo che per un reale empowerment. È consapevole del digital divide e delle disuguaglianze di accesso e competenza che influenzano la partecipazione. Comprende il concetto di tecnosoluzionismo e i suoi rischi. Pratica trasformativa, utilizza piattaforme di petizione online, strumenti di giornalismo civico e di mappatura comunitaria delle ingiustizie. Partecipa a consultazioni pubbliche online con proposte informate e critiche. Organizza e partecipa a forme di protesta e disobbedienza civile digitale eticamente fondate. Sviluppa e utilizza tecnologie civiche, civic tech, open source, attitudine solidale e decoloniale. È profondamente convinto del potenziale trasformativo di una cittadinanza digitale attiva e critica. Si impegna per un accesso equo e universale alle tecnologie e alle competenze necessarie per la partecipazione. Promuove la trasparenza e l'accountability delle istituzioni attraverso il monitoraggio civico digitale. 2.4 Collaborare e co-creare attraverso tecnologie digitali in modo orizzontale, inclusivo e antioppressivo. Descrittore. Utilizzare strumenti e tecnologie digitali per facilitare processi collaborativi e di co-creazione, di conoscenza, arte, software, soluzioni a problemi comuni, basati su principi di orizzontalità, consensualità, valorizzazione delle diversità, equa distribuzione del potere decisionale e attiva prevenzione di dinamiche oppressive o discriminatorie. Privilegiare piattaforme e metodi che supportino la proprietà collettiva e la gestione comunitaria dei risultati. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Riconosce come le dinamiche di potere e privilegio presenti nella società offline possano riprodursi e amplificarsi negli spazi collaborativi online se non attivamente contrastate. È consapevole dei rischi di invisibilizzazione del lavoro di cura e del contributo delle donne e dei gruppi marginalizzati nei progetti collettivi. Critica i modelli di Open Innovation e Corporate che sfruttano il lavoro gratuito delle comunità. Pratica trasformativa, utilizza piattaforme collaborative open source, esempio Wiki, forum decentralizzati, code hosting etici che permettano una governance partecipata. Adotta e promuove metodi di facilitazione inclusiva e di presa di decisione consensuale, o per consenso modificato, nei gruppi online. Contribuisce a progetti di software libero, hardware aperto o design aperto con licenze copyleft. Pratica l'attribuzione trasparente e il riconoscimento del contributo di tutto asterisco. Attitudine solidale e decoloniale. Valorizza profondamente la saggezza collettiva e il potere della co-creazione orizzontale. Si impegna attivamente a creare ambienti collaborativi dove ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata, e dove le dinamiche di oppressione siano sfidate. Promuove la condivisione del potere e delle responsabilità. 2.5 Netiquette e cura delle relazioni digitali in una prospettiva femminista e antioppressiva. Descrittore, essere consapevoli delle norme implicite ed esplicite di comportamento e del saper fare relazionale necessari per interagire in modo costruttivo, etico e curante negli ambienti digitali. Adottare e promuovere strategie comunicative e relazionali che tengano conto delle differenze culturali, generazionali, di genere, di abilità e di vissuto, in una prospettiva femminista intersezionale e antioppressiva, coltivando la fiducia, il rispetto reciproco e la responsabilità collettiva per il benessere della comunità online. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Comprende che la un'etichetta tradizionale può riflettere norme culturali dominanti e non essere sufficiente a garantire spazi sicuri e inclusivi. Riconosce l'importanza del lavoro emotivo e di cura, spesso invisibilizzato e femminilizzato, nel mantenimento di comunità online sane. È consapevole dell'impatto del linguaggio e delle microaggressioni. Pratica trasformativa. Pratica l'ascolto attivo e l'empatia nelle comunicazioni digitali. Chiede e offre feedback costruttivo. Interviene per de-escalare conflitti e per supportare chi è bersaglio di attacchi. Utilizza trigger warnings e descrizioni di immagini per l'accessibilità. Promuove la cultura del consenso anche nelle interazioni digitali. Attitudine solidale e decoloniale. Si assume la responsabilità di contribuire a un clima relazionale positivo e supportivo. È attento alle dinamiche di potere e si adopera per equilibrarle. Mostra rispetto per i confini personali e per i tempi di risposta altrui. È disposto a imparare e a mettersi in discussione per migliorare le proprie pratiche relazionali. 2.6 Gestire identità digitali plurali e consapevoli, resistendo alla profilazione e alla sorveglianza. Descrittore, creare e gestire una o più identità digitali in modo consapevole, strategico e sicuro, proteggendo la propria reputazione e quella altrui da attacchi e manipolazioni. Comprendere e gestire i dati e le tracce che si producono attraverso diversi strumenti, ambienti e servizi digitali, resistendo attivamente alla profilazione pervasiva, alla sorveglianza di massa e all'uso commerciale o repressivo dei dati personali. Affermare il diritto all'anonimato e alla pseudonimia quando necessari per la sicurezza e la libertà d'espressione. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Attitudine solidale e decoloniale. Difende il diritto alla privacy come fondamento della libertà e della dignità umana. È critico avverso la normalizzazione della sorveglianza. Supporta le lotte per la data sovereignty e per la protezione dei dati dei whistleblower e degli attivisti. Promuove una cultura della consapevolezza sulla privacy e sulla sicurezza digitale. Consapevolezza critica. È consapevole che ogni interazione online lascia tracce digitali che vengono sistematicamente raccolte, aggregate e analizzate da attori statali e corporate per fini di controllo, profitto o manipolazione. Comprende i meccanismi dell'aocapitalismo della sorveglianza. Riconosce i rischi del furto d'identità e della doxing. Pratica trasformativa, utilizza strumenti per la navigazione anonima, esempio, Tor browser, VPN etiche, email temporanee e crittografia per proteggere la propria privacy. Minimizza la condivisione di dati personali non necessari. Utilizza pseudonimi in contesti appropriati. Supporta e utilizza piattaforme decentralizzate e federate, esempio, Mastodon, Matrix, che offrono maggiore controllo sui dati. Esercita il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati quando possibile. Area di competenza 3. Creazione di contenuti digitali etici, conviviali, accessibili, decolonizzati e al servizio della pluralità. Descrizione dell'area. Quest'area è dedicata alla capacità di creare, modificare e condividere contenuti digitali, testuali, visivi, sonori, interattivi, in formati diversi, esprimendosi attraverso mezzi digitali in modo etico, creativo, accessibile e consapevole delle proprie responsabilità. Si tratta di promuovere la diversità culturale e linguistica, di utilizzare strumenti e licenze aperte, di progettare per l'accessibilità universale, anti-abilismo, e di contribuire attivamente alla decolonizzazione dei contenuti digitali, sfidando stereotipi e narrazioni egemoniche. Si incoraggiano l'uso di tecnologie conviviali e la critica alla mercificazione della creatività. 3.1 Sviluppare contenuti digitali accessibili, plurali e che sfidino le egemonie narrative. Descrittore, creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, testi, immagini, audio, video, codice, eccetera, assicurando la massima accessibilità per persone con diverse abilità e necessità. Anti-abilismo. Esprimersi attraverso mezzi digitali promuovendo la diversità culturale, linguistica e di genere, sfidando attivamente le narrazioni egemoniche, gli stereotipi e le rappresentazioni coloniali, patriarcali o abiliste. Privilegiare formati aperti e interoperabili. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Comprende come la maggior parte dei contenuti digitali mainstream rifletta e perpetui la prospettiva occidentale, bianca, maschile, eteronormativa e abile centrata. Riconosce l'impatto negativo degli stereotipi e della mancanza di rappresentazione. È consapevole dell'importanza cruciale degli standard di accessibilità, WC, eccetera, e dei limiti di un approccio puramente tecnico all'inclusione. Pratica trasformativa, utilizza attivamente strumenti e tecniche per creare contenuti digitali accessibili. Esempio, testo alternativo per le immagini, sottotitoli e trascrizioni per i video, strutture semantiche corrette per i testi, contrasto cromatico adeguato. Co-crea contenuti con persone appartenenti a gruppi sottorappresentati, garantendo la loro agency e il controllo sulla propria narrazione. Produce contenuti in lingue minoritarie o indigene. Utilizza consapevolmente il linguaggio per evitare espressioni sessiste, razziste, abiliste. Attitudine solidale e decoloniale. Si impegna a creare contenuti che amplifichino le voci e le storie di chi è solitamente escluso o marginalizzato. È sensibile e rispettoso a delle diverse identità culturali e delle diverse abilità. Promuove attivamente una cultura digitale plurale, multilingue e accessibile a tutto asterisco. 3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali in modo etico e trasformativo, valorizzando il commoning e la cultura del remix decoloniale. Descrittore, modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti digitali esistenti, specialmente quelli rilasciati con licenze aperte o appartenenti al pubblico dominio, per creare conoscenze e opere derivate nuove, originali e rilevanti. Questo processo deve avvenire in modo etico, rispettando la paternità originaria, specialmente se di comunità o autori e autrici marginalizzati e con l'obiettivo di contribuire al commoning digitale, creazione e gestione collettiva di beni comuni e di promuovere una cultura del remix che sia decoloniale, critica e trasformativa, piuttosto che meramente appropriativa o superficiale. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Comprende i rischi dell'appropriazione culturale e della decontestualizzazione quando si rielaborano contenuti provenienti da culture non egemoniche. È consapevole che il remix può essere uno strumento di critica e sovversione, ma anche di perpetuazione di stereotipi se non usato criticamente. Riconosce il valore del lavoro intellettuale e creativo anche quando non protetto da copyright restrittivi. Pratica trasformativa, attribuisce correttamente e rispettosamente le fonti, specialmente quando si tratta di saperi tradizionali o comunitari. Chiede il consenso quando necessario, anche oltre i requisiti legali. Utilizza il remix e la parodia per criticare le narrazioni dominanti e per creare significati alternativi. Contribuisce attivamente a progetti di creazione collettiva di beni comuni digitali, esempio. Mappe aperte, enciclopedie collaborative decolonizzate. Attitudine solidale e decoloniale, valorizza la cultura della condivisione e della collaborazione creativa. È attento a non sfruttare o banalizzare il lavoro altrui, specialmente quello di gruppi oppressi. Promuove un approccio al remix che sia dialogico, rispettoso e che miri all'arricchimento collettivo e alla giustizia epistemica. 3.3 Copyright, licenze aperte e beni comuni digitali, promuovere la condivisione, la sovranità collettiva sulla conoscenza e contrastare la mercificazione. Descrittore, comprendere criticamente come il copyright e le licenze, proprietarie aperte, si applicano a dati, informazioni e contenuti digitali, riconoscendo come i regimi di proprietà intellettuale dominanti spesso favoriscano gli oligopoli occidentali e la mercificazione della conoscenza. Promuovere attivamente l'uso di licenze aperte, esempio, Creative Commons, GPL, e la creazione di beni comuni digitali per favorire la condivisione, l'accesso equo, la collaborazione e la sovranità collettiva sulla conoscenza, contrastando l'estrattivismo informativo. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. È consapevole che il sistema del copyright, nella sua forma attuale, è spesso uno strumento di potere che limita l'accesso alla cultura e alla conoscenza, specialmente per i paesi del sud globale e per i gruppi marginalizzati. Comprende la differenza tra copyright e diritto d'autore morale. Critica la brevettazione della vita e dei saperi tradizionali. Riconosce come la logistica capitalistica dell'informazione trasformi ogni prodotto culturale in merce. Pratica trasformativa, rilascia i propri contenuti digitali, quando appropriato, con licenze Creative Commons che incoraggino la condivisione e il riutilizzo. Esempio. CC BY-SA. Utilizza e promuove l'uso di software libero e open source. Supporta campagne per la riforma del copyright in senso più equo e per l'ampliamento del pubblico dominio. Partecipa a iniziative per la creazione di archivi di conoscenze tradizionali gestiti dalle comunità stesse. Attitudine solidale e decoloniale. Crede fermamente nel principio che la conoscenza e la cultura debbano essere accessibili e condivisibili il più ampiamente possibile. Si oppone alla chiusura e alla privatizzazione dei saperi. Sostiene modelli di produzione e diffusione della conoscenza basati sulla cooperazione e sul bene comune, piuttosto che sul profitto individuale e sull'esclusione. 3.4 Programmazione e sviluppo conviviale, comunitario e decolonizzato. Tecnologie per l'autonomia, la riparabilità e non per il controllo o l'obsolescenza. Descrittore, pianificare e sviluppare, o partecipare allo sviluppo di sequenze di istruzioni comprensibili da parte di un sistema informatico, codice per risolvere problemi specifici o svolgere compiti collettivamente utili. Questo processo deve essere orientato alla creazione di tecnologie conviviali, nel senso di Ivan Illich, strumenti che le persone possono comprendere, controllare, adattare e riparare, comunitarie, sviluppate con e per le comunità, e decolonizzate, che non incorporino bias occidentali o logiche di controllo. Contrastare l'obsolescenza programmata, i sistemi chiusi e l'uso della programmazione per fini estrattivi o di sorveglianza. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica comprende come la progettazione del software e dell'hardware possa incorporare valori e politiche specifiche, esempio, design ostile, architetture centralizzate, dipendenza da cloud proprietari. È consapevole dell'impatto ambientale e sociale dell'obsolescenza programmata e della difficoltà di riparare molti dispositivi moderni. Riconosce il ruolo del microlavoro sommerso, spesso nel sud globale, nell'addestramento degli algoritmi di IA e nella moderazione dei contenuti. Pratica trasformativa, impara e utilizza linguaggi di programmazione e strumenti di sviluppo open source. Contribuisce a progetti di software libero e hardware aperto. Progetta e sviluppa applicazioni decentralizzate, di apps o federate. Promuove e pratica la riparazione dei dispositivi elettronici. Supporta iniziative di coding popolare e di alfabetizzazione tecnologica critica nelle comunità. Sviluppa strumenti che aiutino a svelare i bias algoritmici o a proteggere la privacy. Attitudine solidale e decoloniale, vede la programmazione come una forma di artigianato e di azione politica, non solo come una competenza tecnica. È impegnato a creare tecnologie che siano emancipatorie, sostenibili e al servizio delle persone e delle comunità, non del profitto o del controllo. Promuove la trasparenza del codice e la governance comunitaria dei progetti software. Area di competenza 4. Sicurezza digitale collettiva. Autodifesa digitale e cura delle infrastrutture comunitarie, ambientali e relazionali. Descrizione dell'area. Quest'area si concentra su un approccio olistico, intersezionale e collettivo alla sicurezza digitale, che trascende la mera protezione individuale per abbracciare il benessere e la resilienza delle comunità, la resistenza attiva contro la sorveglianza statale e corporativa, la violenza digitale, specialmente quella di genere e razzializzata, e la cura attiva delle infrastrutture digitali comunitarie e dell'ambiente naturale impattato dalle tecnologie. Si tratta di sviluppare pratiche di autodifesa digitale, promuovere la sovranità tecnologica e agire per una drastica riduzione dell'impronta ecologica del digitale. 4.1 Proteggere dispositivi, dati, comunicazioni e comunità da sorveglianza, estrattivismo, censura e violenza digitale sistemica. Descrittore. Comprendere e utilizzare strumenti e pratiche per proteggere i propri dispositivi e quelli della comunità, i dati personali e collettivi, e le comunicazioni da accessi non autorizzati, sorveglianza pervasiva, statale e corporate, censura, attacchi informatici mirati e forme sistemiche di violenza digitale, doxing, trolling organizzato, hate speech, con particolare attenzione alla protezione di attivisti, giornalisti, minoranze e gruppi vulnerabili. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. È consapevole delle capacità di sorveglianza di massa degli stati e delle grandi aziende tecnologiche, e di come queste vengano usate per il controllo sociale, la repressione del dissenso e il profitto. Riconosce che la sicurezza nazionale gli è spesso usata come pretesto per violare i diritti umani. Comprende le tattiche di intimidazione e censura online usate contro i difensori dei diritti umani e le voci critiche. Sa che il microlavoro di moderazione dei contenuti è spesso traumatico e mal pagato. Pratica trasformativa, utilizza crittografia end-to-end per le comunicazioni, esempio, Signal, Proton Mail. Adotta password robuste e gestori di password sicuri. Utilizza sistemi operativi e software focalizzati sulla privacy, esempio, Linux, Tails. Partecipa a workshop di autodifesa digitale e li organizza per la propria comunità. Supporta e utilizza reti anonimizzanti, esempio, Tor, quando necessario. Documenta e denuncia casi di censura e violenza digitale. Attitudine solidale e decoloniale. Considera la sicurezza digitale una responsabilità collettiva e una forma di mutuo appoggio. È solidale con le persone e i gruppi più esposti alla sorveglianza e alla repressione. Promuove una cultura della sicurezza all'interno dei movimenti sociali e delle comunità. Si batte per il diritto alla privacy e alla libertà d'espressione online e offline. 4.2 Proteggere i dati personali e collettivi come beni comuni, promuovendo la sovranità informativa delle comunità e contrastando l'estrattivismo digitale. Descrittore, comprendere il valore dei dati personali e collettivi, inclusi i saperi tradizionali e comunitari, e proteggerli dall'estrattivismo da parte di aziende e stati. Promuovere modelli di governance dei dati basati sulla sovranità informativa delle comunità, sul consenso informato, sulla minimizzazione della raccolta e sulla gestione collettiva dei dati come beni comuni digitali. Opporsi alla mercificazione dei dati e all'uso di algoritmi opachi che sfruttano tali dati a fini discriminatori o di profitto. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica. Comprende come il modello di business di molte piattaforme digitali si basi sull'estrazione e la vendita dei dati personali. Capitalismo della sorveglianza. Riconosce che i dati aggregati delle comunità possono avere un enorme valore e che le comunità stesse dovrebbero averne il controllo. È consapevole dei rischi di colonialismo dei dati quando i dati del sud globale vengono raccolti e processati da aziende del nord globale. Pratica trasformativa, minimizza la propria impronta digitale, fornendo solo i dati strettamente necessari. Legge criticamente, e rifiuta quando possibile, le informative sulla privacy invasive. Supporta e utilizza piattaforme che adottano politiche di data minimization e privacy by design. Partecipa a iniziative per la creazione di data trust comunitari o cooperative di dati. Promuove l'uso di licenze per i dati che ne garantiscano l'uso etico e comunitario. Attitudine solidale e decoloniale. Difende il diritto all'autodeterminazione sui propri dati e sui dati della propria comunità. Si oppone all'idea che i dati siano il nuovo petrolio da estrarre indiscriminatamente. Promuove una visione dei dati come potenziale risorsa per il benessere collettivo, se gestiti in modo equo, trasparente e partecipato. 4.3 Promuovere il benessere digitale collettivo e individuale, contrastando la tossicità degli ambienti online, la dipendenza indotta dalle piattaforme e l'invasione dell'istruzione. Descrittore, essere consapevoli dell'impatto delle tecnologie digitali sulla salute mentale, fisica e relazionale, sia a livello individuale che collettivo. Promuovere pratiche di benessere digitale basate sulla cura di sé e degli altri, sulla disconnessione consapevole, sulla gestione dello stress da iperconnessione e sulla creazione di ambienti online più sani, empatici e meno tossici. Contrastare attivamente il design delle piattaforme che induce dipendenza e l'invasione degli spazi educativi da parte di logiche e strumenti corporate che mercificano l'apprendimento. Esempi di consapevolezze critiche. Pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica, riconosce come le notifiche costanti, il design persuasivo e gli algoritmi di engagement delle piattaforme social siano progettati per massimizzare il tempo di utilizzo e indurre comportamenti compulsivi. È consapevole dei rischi di cyberbullismo, hate speech, FOMO, fear of missing out, e del loro impatto sulla salute mentale, specialmente dei più giovani e dei gruppi vulnerabili. Critica la crescente dipendenza delle istituzioni educative da piattaforme e software proprietari forniti da grandi corporation. Pratica trasformativa, stabilisce limiti personali all'uso delle tecnologie e incoraggia pratiche di digital detox o slow tech. Disattiva le notifiche non essenziali. Utilizza strumenti per monitorare e limitare il tempo trascorso online. Promuove e partecipa a comunità online basate sul supporto reciproco e sulla comunicazione non violenta. Sostiene e utilizza piattaforme educative open source e autogestite, resistendo alla datificazione degli studenti. Attitudine solidale e decoloniale. Si prende cura del proprio benessere digitale e di quello della propria comunità. È empatico verso chi soffre a causa della tossicità degli ambienti online o della dipendenza da piattaforme. Promuove una cultura della presenza, dell'ascolto e della relazione autentica, sia online che offline. Difende il diritto a un'istruzione pubblica, critica e non mercificata, libera da ingerenze corporate. 4.4 Proteggere l'ambiente e promuovere la giustizia climatica e sociale attraverso un uso consapevole, ridotto e conviviale delle tecnologie digitali. Descrittore. Essere profondamente consapevoli dell'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita delle tecnologie digitali, estrazione di minerali rari, produzione, consumo energetico di dispositivi, server e reti, e-waste. Promuovere una drastica riduzione dei consumi digitali, la riparabilità, il riuso, il riciclo responsabile e l'adozione di tecnologie low-tech o appropriate conviviali. Utilizzare le tecnologie digitali, quando necessario e in modo sostenibile, per supportare la giustizia climatica, la sovranità alimentare, la difesa dei territori e la transizione ecologica dal basso. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica comprende che l'idea di una dematerializzazione grazie al digitale è un mito. Le tecnologie hanno un'enorme impronta ecologica e sociale, spesso scaricata sui paesi e sulle comunità più povere del sud globale. Estrattivismo di risorse, discariche di rifiuti elettronici. È consapevole del crescente consumo energetico legato all'intelligenza artificiale, alle criptovalute, come Bitcoin, e allo streaming video. Riconosce il greenwashing di molte aziende tecnologiche. Pratica trasformativa, prolunga la vita dei propri dispositivi, li ripara quando possibile e li smaltisce correttamente. Sceglie prodotti ricondizionati o di aziende con comprovate politiche di sostenibilità. Riduce lo streaming video non necessario, scarica contenuti invece di accedervi ripetutamente online, limita l'uso di data center energivori, supporta e utilizza software leggero e sistemi operativi a basso consumo. Partecipa a iniziative di informatica solidale per il riuso di hardware. Utilizza piattaforme digitali per monitorare l'inquinamento, organizzare azioni di giustizia climatica e condividere pratiche agroecologiche. Attitudine solidale e decoloniale. Promuove una visione de growth o di post-crescita anche nel settore digitale. È critico verso il tecnosoluzionismo che ignora i limiti planetari. Sostiene le lotte delle comunità impattate dall'estrattivismo minerario per le tecnologie e dallo smaltimento dei rifiuti elettronici. Valorizza i saperi tradizionali e indigeni sulla sostenibilità e cerca di integrarli con un uso appropriato e consapevole delle tecnologie. Area di competenza 5. Risolvere problemi collettivamente e coprogettare soluzioni tecnologiche e sociali eque, sostenibili, conviviali e radicate nei bisogni delle comunità. Descrizione dell'area. Quest'area si concentra sulla capacità di affrontare problemi complessi, sociali, ambientali, economici, culturali, in modo collaborativo, interdisciplinare e interculturale, utilizzando le tecnologie digitali come strumenti di supporto, e non come fine in sé, per l'analisi critica, la coideazione, la coprogettazione, l'implementazione e la valutazione di soluzioni che siano eque, sostenibili, accessibili, culturalmente appropriate e conviviali. Si tratta di sfidare il tecnosoluzionismo ingenuo e gli approcci top-down, promuovendo invece la partecipazione attiva delle comunità interessate, la valorizzazione dei saperi locali e la costruzione di alternative sistemiche. 5.1 Identificare, analizzare criticamente e decostruire problemi sociotecnici complessi, riconoscendone le radici sistemiche, coloniali e patriarcali. Descrittore, sviluppare la capacità di identificare problemi rilevanti per la propria comunità e per la società in generale, analizzandoli in profondità per comprenderne le cause strutturali e sistemiche, economiche, politiche, culturali, storiche, incluse le radici coloniali, patriarcali e capitalistiche delle ingiustizie e delle disuguaglianze. Utilizzare strumenti digitali per la raccolta e l'analisi critica di dati e informazioni, ma anche per la condivisione di analisi e la costruzione di diagnosi collettive. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica riconosce che molti problemi apparentemente tecnici hanno profonde radici sociali e politiche. È in grado di analizzare come le tecnologie possano essere implicate nel mantenimento o nell'aggravamento delle disuguaglianze. Esempio: bias algoritmici, digital divide, sorveglianza differenziale. Comprende i limiti di un approccio puramente quantitativo o data-driven ai problemi sociali, valorizzando anche le analisi qualitative, le narrazioni e i saperi esperienziali. Pratica trasformativa, utilizza strumenti di analisi dei dati open source, tecniche di mappatura comunitarie e piattaforme di giornalismo investigativo collaborativo per indagare problemi sociali. Facilita e partecipa a processi di ricerca azione partecipata che coinvolgono le comunità nell'analisi dei propri problemi. Decostruisce le narrazioni mediatiche dominanti sui problemi sociali, cercando fonti e prospettive alternative. Attitudine solidale e decoloniale. Ascolta e impara dalle esperienze dirette delle persone e delle comunità che vivono i problemi. È disposto a mettere in discussione i propri privilegi e le proprie assunzioni. Promuove un approccio intersezionale all'analisi dei problemi, riconoscendo come diverse forme di oppressione si intreccino. 5.2 Coideare e coprogettare soluzioni tecnologiche e sociali conviviali, accessibili, sostenibili e al servizio delle comunità, non del profitto. Descrittore. Partecipare attivamente a processi collaborativi e inclusivi di ideazione e progettazione di soluzioni, che possono includere o meno componenti tecnologiche, a problemi identificati. Privilegiare lo sviluppo di strumenti conviviali, che aumentano l'autonomia e la creatività delle persone e delle comunità, accessibili a tutto asterisco, ecologicamente sostenibili e culturalmente appropriati. Adottare metodologie di co-design, design thinking critico e participatory design, assicurando che le comunità interessate siano protagoniste del processo e che le soluzioni rispondano ai loro bisogni reali e non a logiche di mercato o di controllo. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica, critica l'approccio design for the other, progettare per gli altri senza coinvolgerli, tipico di molto interventismo tecnocratico o corporate. Riconosce che le soluzioni imposte dall'alto o dall'esterno spesso falliscono o creano nuovi problemi. È consapevole dei rischi del solutionism tecnologico che promette di risolvere problemi sociali complessi con una semplice app. Pratica trasformativa, utilizza e facilita metodi di progettazione partecipata, esempio. Workshop di co-design, prototipazione rapida con utenti, design sprint etici. Sviluppa e adatta tecnologie appropriate, low cost, low tech, riparabili, basate su risorse locali, insieme alle comunità. Promuove l'uso di hardware aperto, esempio. Arduino, Raspberry Pi per progetti comunitari e software libero. Documenta e condivide apertamente i processi di progettazione e i risultati. Attitudine solidale e decoloniale, valorizza i saperi e le capacità inventive delle comunità locali. Lavora con dei per le comunità, non sui di esse. Promuove soluzioni che rafforzino l'autonomia, la resilienza e la sovranità tecnologica delle comunità. È paziente e rispetta i tempi e i processi decisionali comunitari. 5.3 Utilizzare in modo creativo, critico ed etico le tecnologie digitali per l'innovazione sociale radicale, la giustizia e la trasformazione ecosociale dal basso. Descrittore, sperimentare e utilizzare in modo creativo, critico ed eticamente responsabile le tecnologie digitali, esistenti o autoprodotte, come strumenti per supportare processi di innovazione sociale radicale, per promuovere la giustizia sociale, economica, di genere, razziale e ambientale, e per facilitare la transizione verso modelli di vita e di organizzazione sociale più equi, solidali, ecologicamente sostenibili e democratici, partendo dalle iniziative e dalle lotte delle comunità e dei movimenti sociali. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica, riconosce che l'innovazione non è neutra, può servire a rafforzare il sistema dominante o a trasformarlo. Critica l'idea di innovazione o come mera novità tecnologica o come motore di crescita infinita. È consapevole che le tecnologie possono essere strumenti a doppio taglio, usate sia per l'emancipazione che per la repressione. Pratica trasformativa. Supporta e partecipa a progetti di economia solidale e circolare che utilizzano piattaforme digitali cooperative. Utilizza strumenti digitali per l'educazione popolare critica, la creazione di media indipendenti e comunitari, l'organizzazione di campagne di advocacy per i diritti umani e la giustizia ambientale. Sviluppa o adatta tecnologie per il monitoraggio ambientale partecipato, citizen science, per la gestione comunitaria di risorse, acqua, energia, cibo, o per la creazione di reti di mutuo soccorso. Attitudine solidale e decoloniale. È impegnato a mettere le proprie competenze digitali al servizio di cause sociali e ambientali. È creativo e ingegnoso nel trovare modi per riaccherare o riappropriarsi delle tecnologie esistenti per fini emancipatori. Crede nel potere dell'azione collettiva e dell'innovazione dal basso per generare un cambiamento sistemico. 5.4 Identificare i divari di accesso, competenze, potere e rappresentanza nel digitale, e agire collettivamente per la giustizia digitale, l'inclusione radicale e l'empowerment collettivo. Descrittore. Sviluppare una profonda comprensione delle molteplici dimensioni del digital divide e delle disuguaglianze digitali. Accesso a infrastrutture e dispositivi. Competenze d'uso, alfabetizzazione critica, capacità di agency, Rappresentanza nella progettazione e governance delle tecnologie. Esposizione differenziale ai rischi. Agire individualmente e collettivamente per promuovere la giustizia digitale. L'inclusione radicale di tutte le soggettività e l'empowerment collettivo, attraverso l'advocacy politica, l'educazione critica, la creazione di infrastrutture comunitarie e la lotta contro ogni forma di discriminazione e esclusione nell'ecosistema digitale. Esempi di consapevolezze critiche, pratiche trasformative e attitudini solidali e decoloniali. Consapevolezza critica comprende che il digital divide non è solo una questione di accesso tecnico, ma riflette e amplifica disuguaglianze sociali, economiche, educative, di genere, geografiche e razziali preesistenti. Riconosce che anche chi ha accesso può mancare delle competenze critiche per un uso consapevole ed emancipatorio. È consapevole dei bias di genere e razziali nell'industria tecnologica e nella progettazione degli algoritmi. Pratica trasformativa, partecipa e sostiene campagne per il diritto universale a un accesso a internet equo, aperto e neutrale, e per la fornitura di dispositivi a prezzi accessibili o gratuiti per chi ne ha bisogno. Organizza e facilita laboratori di alfabetizzazione digitale critica e di coding popolare, specialmente per gruppi marginalizzati. Contribuisce a creare e mantenere infrastrutture di rete comunitarie, community networks. Sostiene politiche per la diversità e l'inclusione nell'industria tecnologica e nella ricerca. Attitudine solidale e decoloniale. Si impegna attivamente per smantellare le barriere che impediscono una piena ed equa partecipazione di tutte. Asterisco alla società digitale. È alleato a delle lotte dei gruppi che subiscono discriminazione o esclusione a causa delle tecnologie o della loro assenza. Promuove una visione del digitale come spazio di diritti, di opportunità e di emancipazione per tutto asterisco, non solo per pochi privilegiati. Conclusione, coltivare semi di futuri digitali giusti, liberatori e rigenerativi. DigiCop 0.1 non si presenta come un traguardo definitivo o un modello prescrittivo, ma piuttosto come un processo dinamico e aperto, un cantiere collettivo di apprendimento, critica, sperimentazione e trasformazione continua. Le competenze qui delineate, volutamente ambiziose e interconnesse, mirano a coltivare non solo abilità tecniche o capacità operative, ma soprattutto profonde e radicate. Consapevolezze critiche sulle strutture di potere che innervano il digitale, attitudini etiche fondate sulla cura e sulla responsabilità, e pratiche quotidiane solidali e decolonizzanti. L'obiettivo ultimo è quello di permettere a individui, gruppi e intere comunità di navigare con saggezza e agency, e di plasmare collettivamente un ecosistema digitale che sia realmente e concretamente al servizio della dignità umana in tutte le sue espressioni, della giustizia sociale, economica, razziale, di genere e intergenerazionale, e della rigenerazione ecologica e culturale del nostro pianeta. Si tratta di un invito pressante e appassionato a diventare co-creatori e co-creatrici consapevoli e responsabili di futuri digitali plurali, conviviali, decolonizzati, femministi, antiabilisti e profondamente democratici. Futuri in cui la tecnologia, liberata dalle logiche del profitto a breve termine, del controllo pervasivo e dell'estrattivismo predatorio, possa finalmente diventare uno strumento potente e versatile di liberazione individuale e collettiva, di cooperazione orizzontale, di espressione creativa e di cura reciproca e del mondo vivente. La sfida è immensa e complessa, ma non eludibile. Essa richiede l'impegno paziente, coraggioso e creativo di ognuno a e di tutto asterisco, nella costruzione quotidiana di alternative concrete e nella tessitura di alleanze trasformative traslocali e globali. DigiCop 0.1 vuole essere una mappa parziale e in divenire per questo viaggio collettivo, un seme da coltivare insieme affinché possa germogliare in pratiche di libertà e giustizia. Condividi. X. Facebook. Mi piace caricamento. Correlati. Repubblica. Abbonati abbonato concetti contrastivi. Hai già un account wordpress.com? Accedi ora. Concetti contrastivi. Abbonati abbonato. Registrati. Accedi. Copia shortlink. Segnala questo contenuto. Visualizza articolo nel reader. Gestisci gli abbonamenti. Riduci la barra. Percento di. IMGSRC uguale https://pixel.wp.com/b.gif. V equals NoScript is style equals 8, 1px, width, 1px, overflow, hidden, position, absolute, Bottom 1px alto uguale i barra.